Le cose gelosamente asseverate si vendicano. Dei subitanei spostamenti, spalancando corolle, maniglie, come gli occhi invasati degli innocenti e viti troppo esigue. Attaccamenti esili alla vita cedono a vitigni spenti. È malinconicamente punibile l'innocenza per tratta. Allora l'ira allarma le cose. Le cose ribelli silenziano l'antifurto interno. Anzi lo sfiderebbero quelle maniglie, subdolamente fiorendo e sfinendosi in guerre intimistiche.